24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano i preparativi per il Consiglio europeo in programma questa sera a Bruxelles. Siamo a un punto di svolta nella crisi del debito, ha dichiarato il commissario agli affari economici Olli Rehn. I dati OCSE intanto fotografano un'Europa freno e rischio per l'economia globale. Ed è un'Italia lontana dall'Europa su alcuni parametri importanti, quella dipinta dall'Istat in un rapporto reso noto ieri. Oggi vi portiamo anche a Bruxelles per l'apertura della Green Week e a Cannes per gli ultimi aggiornamenti dalla Croisette. Come dicevamo, oggi è una giornata cruciale in attesa del Consiglio europeo in programma a Bruxelles. Ieri le dichiarazioni del commissario agli affari economici Olli Rehn: siamo a un punto di svolta nella crisi del debito. La crescita, ha aggiunto Rehn, è impossibile finché il debito non sarà sostenibile. Intanto c'è accordo tra Parlamento europeo e Consiglio europeo per il via libera ai primi project bonds europei. I rappresentanti delle istituzioni comunitarie hanno raggiunto in una riunione a Strasburgo il compromesso per varare un progetto pilota che destina 230 milioni di garanzie e prestiti per l'emissione di obbligazioni con un moltiplicatore atteso tra 15 e 20, in grado quindi di mobilitare 4,6 miliardi di euro di investimenti privati per progetti in infrastrutture, trasporti, energia e tecnologie digitali. E i dati OCSE resi noti ieri fotografano un'Europa che è un freno alla ripresa mondiale. L'economia globale sta di nuovo cercando di tornare alla crescita, ma lo sta facendo a diverse velocità, con Stati Uniti e Giappone che crescono più in fretta dell'area euro. Aggiunge l'OCSE, la crisi nell'eurozona è diventata più seria recentemente e resta la più importante fonte di rischio per l'economia globale. Le statistiche sull'Italia confermano un prodotto interno lordo in calo dell'1,7% nel 2012 e dello 0,4% nel 2013. Per l'OCSE l'economia italiana è in recessione a causa della debolezza generale dell'economia continentale e per le conseguenze immediate delle misure di consolidamento fiscale. Il presidente americano Barack Obama intanto striglia l'Europa. L'Unione deve risolvere i suoi problemi subito, ha detto, sottolineando come siano necessarie politiche che permettano a chi ha fatto grandi sacrifici in termini di consolidamento, quali Italia e Spagna, di tornare sul sentiero della crescita. A rischiare non è solo il vecchio continente, ribadisce Obama, ma l'intera economia mondiale. Sempre per il presidente americano, le banche in Europa devono essere ricapitalizzate. Nell'eurozona occorre fare di più per la crescita, specialmente attraverso riforme strutturali che sono in ritardo anche in Grecia, ed è possibile fare avanzamenti anche nella condivisione del debito, così il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Non c'è un conflitto con la Francia, a riferirlo una fonte governativa tedesca in vista del vertice straordinario europeo di oggi, tuttavia la cancelliera Merkel ha ribadito ancora no agli eurobond. Ora i mercati, seduta brillante per le borse europee, sostenute dalle indicazioni macroeconomiche positive provenienti dagli Stati Uniti e dalle aspettative di interventi pubblici a sostegno dell'economia in Asia. Gli investitori attendono anche il vertice informale europeo di stasera, che si dovrebbe concentrare sul dossier Grecia e sulle possibili misure per rilanciare la crescita nel vecchio continente. La borsa migliore è stata Piazza Affari, con il FTSE MIB che ha guadagnato il 3,41%, trainato dalle performance di ST Micro Electronics e Fiat. Il governo intende recepire la direttiva europea sui ritardati pagamenti entro fine anno, in anticipo dunque rispetto ai tempi previsti per marzo 2013. A dirlo il premier Mario Monti durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sentiamo Monti. Il tema del recupero crediti, come vi è ben noto, ha alimentato anche un dibattito politico molto significativo e di cui il governo ovviamente tiene in considerazione le proposte che sono giunte in Parlamento. Mi riferisco in particolare a quella dell'onorevole Angelino Alfano, che ha proposto di affidare una delega al governo per la compensazione tra i crediti e i debiti delle imprese con la PA e soprattutto per allineare l'Italia ai principali paesi europei sul pagamento dei debiti. In questo senso il governo, a conferma dell'impegno pubblicamente assunto nello scorso febbraio con l'Unione Europea, intende recepire la direttiva sui ritardati pagamenti entro la fine del 2012, quindi in anticipo rispetto al termine comunitario previsto, che è metà marzo del prossimo anno. La direttiva, come sapete, regolamenta i termini di pagamento nei rapporti di fornitura e in particolare fissa in 60 giorni il termine massimo non derogabile di pagamento nei rapporti commerciali tra imprese e pubblica amministrazione. Con l'intervento di oggi siamo in grado di realizzare un progressivo rientro del debito commerciale accumulato dalla PA, riuscendo a smaltire una quota di 20-30 miliardi già nel corso di quest'anno. E ora invece raccontiamo l'impietosa fotografia dell'Istat nel suo rapporto annuale, una fotografia che ritrae purtroppo un'Italia lontana dall'Europa. Sempre più lontani dagli standard europei, l'Italia non cresce né a livello economico né a livello sociale. Nel periodo 2000-2011 l'Italia cresce solo dello 0,4% per anno ed è ultima tra i 27 stati membri dell'Unione Europea. Il paese infatti produce poco. La crisi poi acuisce sempre di più le difficoltà economiche che si trasformano in difficoltà sociali. Si amplia ancora di più il divario tra nord e sud Italia, con il mezzogiorno che raccoglie la maggior parte delle famiglie povere, il 67%. A nord la situazione è molto meno critica, l'occupazione aumenta di quasi l'8%, al sud invece diminuisce. Associando questi dati al fatto che i salari tra il 93 e il 2011 sono rimasti fermi, non può certo sorprendere che le famiglie su cui è aumentato il carico fiscale vedono ridotto il loro potere d'acquisto del 5%. I giovani e le donne sempre più penalizzati, mentre il 24% dei ragazzi resta a casa perché senza lavoro, le donne sono sempre più escluse. Quasi il 34% non percepisce alcun reddito. Praticamente inesistente poi il cosiddetto ascensore sociale, bloccato da circa 50 anni. La classe sociale dei genitori influenza ancora il destino dei figli e già dalla scuola. Tra i nati negli anni 80 solo 20 ragazzi su 100 provenienti da classi più basse sono riusciti a iscriversi all'università. Doriana Leonardo, Radio 24, il Sole 24. Si è aperta a Bruxelles la Green Week europea, il tema è quello dell'acqua, sentiamo la nostra inviata. Un continente densamente popolato, con aree industriali estese ed agricoltura intensiva. Questa è l'Europa e la sua impronta sul consumo d'acqua è anche intuitivamente pesante. Le risorse finora ci sono state, ma in futuro la popolazione aumenta, l'inquinamento puro, i cambiamenti climatici rivoluzionano le stagioni, fanno salire la linea della palma e provocano inondazioni. Tra 30 anni perfino Parigi, Bruxelles o Berlino non avranno più le risorse di oggi. Non è catastrofismo questo, ma studio scientifico. Dobbiamo cambiare passo quindi. In autunno l'Unione dovrebbe partorire la blueprint per salvaguardare le risorse idriche europee, un documento che sarà la Bibbia europea della gestione dell'acqua. A Bruxelles questa settimana daranno il loro contributo esperti ed amministratori. La gestione delle nostre risorse, sottolinea convinta Ida Anken, ministro dell'Ambiente della Danimarca e presidente di turno quindi dell'Unione Europea, la gestione delle nostre risorse è anche la chiave per uscire dalla crisi. Non c'è una ricetta buona per tutti, insiste il professore francese Ghislain de Marsigli, esperto dell'Università di Parigi 6. Ridurre gli sprechi, depurare, desalinizzare, creare aree protette, perfino trasportare l'acqua da un paese all'altro, sono tutte ricette valide, ma bisogna cominciare subito, perché come dice il commissario all'ambiente Patočnik, il bicchiere è mezzo vuoto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Bruxelles. Per chiudere ci spostiamo al Festival del Cinema di Cannes. È stata accolta con un applauso la proiezione di Io e te, film fuori concorso di Bernardo Bertolucci, tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti. Il maestro emiliano riesce a rendere ancor più del libro la solitudine di due ragazzi, Lorenzo e Olivia, nati dallo stesso padre ma lontani ormai da anni. Lei tossicodipendente, lui è gotico ai limiti dell'autismo, si incontrano per caso nella cantina di Lorenzo, dove si è rifugiato fingendo di essere in settimana bianca. La loro rabbia implosa si trasforma in quel soggiorno forzato in empatia e voglia di miglioramento. Grande successo anche per The Angel Share di Ken Loach, che ha fatto ridere molto la platea con una commedia che non ha mai cadute di tensione. La crisi è stata anche lo sfondo di Killing Them Softly, una commedia gangster del neozelandese D'Andrew Dominic, il cui protagonista è Brad Pitt, killer amareggiato dalla politica. Pitt in conferenza stampa ha sconfessato il suo personaggio negativo su Barack Obama. Personalmente sono un democratico, ma non ho paura di confrontarmi con personaggi che la pensano diversamente. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Taruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.